1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. L'Italia si desta. Siamo qui nuovamente, sono le 7:18 minuti, pronti a leggere i giornali. Forza ragazzi, dai! È il momento, l'ho detto con un po' di... Dai, dai! Ecco, questo suona un po' meglio, insomma, per dare un po' più di carica. Bisogna iniziare la giornata, mettete giù caffè, cappucci, brioche, andate a lavorare. Come sempre, e vi ricordo che noi parleremo di questa vicenda che riguarda il tema dell'immigrazione. Parleremo del tema del reato di clandestinità, che oggi forse viene abolito al Senato, ma insomma le polemiche per quello che ha fatto la Padania, che segnala le uscite pubbliche del ministro Kyenge, superato un po', è sopravanzato il dibattito sul reato di clandestinità, nel senso che l'istigazione alla contestazione, questo dicono chi fa notare che far sapere dove è il ministro Kyenge, peraltro sono incontri pubblici, incontri che si sanno, ma insomma è un modo come dire andate a contestarla. E allora la Lega finisce nel mirino delle critiche, ne parleremo alle 8:15, avremo Livia Turco, ex ministro. Avremo Massimo Bitonci, che è il capogruppo della Lega al Senato, e parleremo di questa tematica più avanti, alle 8:15, ora andiamo a sfogliare i giornali. È mercoledì 15 gennaio, intanto i titoli, il Sole 24 Ore apre con prezzi e consumi mai così bassi, l'inflazione 2013 all'1,2% è il minimo da 4 anni, e possiamo vederla come una buona notizia, certo in un contesto non di grande entusiasmo per quel che riguarda l'economia, ma almeno c'è questo dato che conforta. Poi la questione politica, ci sono sempre il caso De Girolamo in primo piano su molti quotidiani, per il Corriere della Sera attacco di Renzi a De Girolamo, questo è il titolo, per Repubblica De Girolamo nuovi indagati, si aggrava la posizione del ministro. La Stampa, se Letta si logora non ho colpa, questa è una lettera che Matteo Renzi ha spedito al quotidiano La Stampa e che viene pubblicata in prima pagina. Per il Messaggero, De Girolamo appalti nel mirino, questo è il titolo. Mentre il giornale, Renzi licenzia Alfano e De Girolamo. Per il Fatto Quotidiano invece la vicenda di una telefonata tra Alfano e Ligresti, che è riportata da tutti i giornali, diventa il titolo di prima pagina. Ligresti a un altro ministro, Alfano lo chiamò per una casa. Libero invece, indagato l'uomo di Renzi. E qui veniamo alla questione dei rimborsi delle regioni. Regione Sicilia, mentre il Secolo XIX mette la Regione Liguria, Regione il primo arresto. Ed è proprio da questa vicenda che voglio partire, cioè col solito appello invito, tenete bene strette le mani sul volante se state guidando, perché arrivano le nuove anticipazioni delle spese pazze. Soldi nostri, spese loro, come sempre, alla Regione Sicilia, piatti d'argento, cene, viaggi coi soldi dei gruppi parlamentari. Questo per esempio è il titolo di pagina 20 del Corriere della Sera. Ci sono 83 tra deputati, si chiamano così, consiglieri regionali della Sicilia, deputati, bisogna chiamarli, e 14 tra consulenti e dipendenti dell'Assemblea regionale. L'indagine è la solita, peculato, cioè avrebbero fatto e messo a rimborso spese tipo borsa Louis Vuitton, cravatta Hermès, profumi dei più costosi, collana di gioielleria, biancheria intima griffata, cene e tutte le solite cose così. Borse Vuitton e automobili, Regione Sicilia 97 indagati, questo è anche il titolo del Fatto Quotidiano. La polemica politica è perché, come scrive il titolo del giornale, c'è anche Davide Faraone, che è un ex deputato regionale, deputato della Sicilia, siccome si riferisce tutta la scorsa legislatura, e ora è nella segreteria di Matteo Renzi. Da qui la polemica anche sulla Stampa, a Palermo l'uomo di Renzi indagato per le spese pazze. Ma la vicenda, tra l'altro, sulle regioni che ha assunto caratteri con sviluppi più clamorosi è in Liguria, dove è stato arrestato l'ex vicepresidente della regione Liguria, Nicolò Scialfa, era dell'Italia dei Valori, quando è stato ingabbiato in una vicenda, è invischiato in una vicenda di utilizzo, come sempre, di soldi pubblici, spese loro, il secolo XIX mette anche l'intercettazione e anche il giallo degli slip è stato svelato finalmente. Chi è la consigliera regionale che ha comprato degli slip e li ha messi a rimborso? È Maruska Piredda, sempre consigliere regionale della Liguria. Questo almeno a leggere su Repubblica, a leggere sul secolo XIX, perché ci sono le intercettazioni. Le intercettazioni sono queste, pubblicate dal Secolo a pagina 3. L'articolo è di Matteo Indice e di Marco Grasso. Si mangia tutto il giorno, dovrebbero scioglierci. Questa è l'ammissione che ha fatto in una telefonata. Che ha fatto una telefonata a Gabriele Cascino, tuttora di Pietrista, assessore, uno che non è coinvolto nell'inchiesta, al commento al telefono con la collega di partito Maruska Piredda, dice farebbero bene a scioglierci qui in Liguria, cioè si rende conto lui stesso che ha assistito evidentemente a delle scene di rimborsi incredibili. Ma la questione degli slip è, giusto per farsi un'idea dell'attenzione con cui venivano gestite le pezze giustificative grazie alle quali gli ex di Pietristi, solo Piredda, ha tenuto la casacca dell'ID dell'Italia dei Valori, ottenevano rimborsi. Si può ricordare questa intercettazione. Il tesoriere del partito Giorgio De Lucchi contatta la moglie Alessandra, che è un dipendente dell'Agenzia delle Entrate, che la aiuta a fare la commercialista. De Lucchi, ho notato che hai lasciato gli scontrini degli slip della Maruska, la Piredda, nella rendicontazione e la moglie. Sì, li hai visti, ma dovevi toglierli, ma perché? Ma dai, non fare la scema! Ma amore, cosa ne so io? Non posso mica buttar via. Io non mi permetto. Ma me lo chiedi su tutto, gli slip, come? Li lasci come regione, cioè come spese della regione, tolte tutte, eh? Insomma, avevano messo anche gli slip. Maruska Piredda aveva messo anche il rimborso degli slip. A un certo punto c'è una telefonata di Burlando, che è il presidente della regione Liguria, e scrive il secolo XIX, effettivamente una telefonata irreprensibile. Cioè a un certo punto Burlando chiama il suo vicepresidente Niccolò Scialfa, quello che è finito agli arresti, perché evidentemente qualcosa non va. E Burlando dice: qui non è solo questione di leggi, di chiarezza, ma capisci, qui bisogna avere un minimo di senso, cioè proprio un minimo di senso, perché sono troppi casi per giustificarli come lo sbaglio di un impiegato. È un segnale di un andazzo normale, la gente penserà che è tutto così. Io, per essere chiari, dice Burlando al suo vice, regalo bottiglie a Natale, ma me le pago io, è un regalo personale, non istituzionale. Poi viene l'ambasciatore e allora c'è uno scambio di doni e quello è un regalo istituzionale. Io non ho mai pensato in 8 anni per dire che l'olio che regalo o il regalino che faccio all'assessore sono istituzionali. Quando tu fai un regalo come rappresentante di un ente, per carità, tutte cose modeste, un libro, un auricolare, lascia perdere. Ma di qui di cose ce ne sono centinaia di libri. E il vicepresidente si difende: ma sì, ma li hai pagati tu? Chiede Burlando. Ma quelli di politica sì, risponde il vicepresidente. Ma ho capito, ma abbi pazienza, io compro e leggo un certo numero di libri, ma non è mica pensabile che uno compri romanzi di Leopardi, non so. Ma forse io ho capito male, si difende Scialfa, ho capito male all'inizio, quelli sono regali, attenzioni. E Burlando: ma scusa, ma uno non è che può fare regali a chi capita. Se uno fa il regalo di Natale a persona di varia umanità, che cazzo c'entra la rappresentanza? Dice Burlando al suo vice. E vabbè, insomma, è finita con l'arresto, gli arresti domiciliari al vice, i nuovi scandali, e poi c'è ancora chi si stupisce quando si dice che le regioni andrebbero abolite. Almeno abolite questo sistema, cioè date, come dico sempre io, la O di Giotto, un bello zero di rimborsi, così non c'è il rischio che uno metta per sbaglio gli slip o le mutande verdi o cose del genere a rimborso. Vabbè, la Stampa mette anche tutto l'elenco, se lo volete, delle spese più incredibili delle regioni a pagina 9. Ne ha messe 40, ma cioè ci sono, vabbè, viene messa appunto le mutande color kiwi Padania di Cota, anche per motivi, magari la Stampa vicino al Piemonte, ma poi 30 pecore e un vitello in Sardegna, chewing gum, caramelle, acqua, salatini, aerei di carta. Alla regione Lombardia sono fatti rimborsare, secondo la Stampa, Alessandro Marelli della Lega, aerei di carta per 15,59 euro. Un biglietto per uno spettacolo di lap dance a un consigliere imprecisato in Calabria. Pareo da Golden Lady, sempre alla regione Liguria. 10 multe dei vigili urbani a Novara, regione Piemonte, Massimo Giordano. Un mini orsetto, Rosa Mastro Simone, della regione Basilicata. Un mini orsetto si è fatta. Poi c'è la serata al disco bar di un consigliere del Molise. Gruppo imprecisato, sempre così, quando sono cose un po' losche, no? Lap dance, disco bar, sempre imprecisato il consigliere. Una bombola a gas è stata anche, un cambio tergicristalli, un barattolo di Nutella. Andiamo in pubblicità, dai. Ed ecco Alessandro Milan che legge i giornali come nessuno al mondo sa leggerli. Eccoci qua alle 7:32 minuti in punto. C'è uno che mi chiede via sms quanto è finita Lazio-Parma ieri. Ha vinto la Lazio 2-1 al 91esimo, è passata in Coppa Italia. Contento Corrado? Così, Lazio-Parma 2-1. Stasera c'è il Milan di Tassotti, Milan-La Spezia. Va bene, allora, come dicevamo, noi alle 8:15 parleremo di questa vicenda che viene coinvolta ancora una volta il ministro Kyenge. Cosa ha fatto, cosa hanno combinato quelli della Padania? Hanno pubblicato e pubblicano anche oggi qui Cecil Kyenge, l'agenda degli appuntamenti pubblici. Ora, non svelano niente di segreto, tutto è già sul sito del ministero, però il problema è che l'ultima volta Cecil Kyenge è stata duramente contestata a Brescia anche da leghisti, anche da assessori, da istituzioni leghiste. E allora eccolo qui la polemica, l'agenda della Kyenge sulla Padania, tutti contro la Lega, è un'intimidazione. Così pagina 12 del Corriere della Sera, Salvini alla risposta della Kyenge che dice la Padania chi? Beh, ormai questa battuta è anche un po' abusata. Salvini, segretario della Lega, oggi scrive sulla Padania: chi siamo? Siamo quelli che la faranno dimettere, caro ministro. Vabbè, c'è la polemica anche per Massimo Bitonci, che sarà nostro ospite alle 8:15, che ha detto il ministro Kyenge favorisce la negritudine. Sta di fatto che Cecil Kyenge risponde, intervistata da Vladimiro Polchi su Repubblica a pagina 13: non riusciranno a cambiarmi, ma ora devono essere fermati. Una pagina di intervista dice il ministro: la verità è che stiamo andando verso l'uccisione della democrazia, nessuna forza politica può più tollerare questo razzismo strisciante. Sono una donna nera che ha studiato e fa il ministro. Purtroppo la mia stessa esistenza pare oggi una sfida ai peggiori stereotipi, a tutti gli intolleranti di casa nostra. La mia agenda è pubblica, tutti possono sapere tutti i miei impegni parlamentari. Io vado avanti, una cosa è certa: non disdico nessun incontro, non salterò alcun appuntamento, non cambierò la mia linea d'azione, che resta ancorata ai valori della non violenza e del dialogo. E poi l'appello: mi rivolgo alle istituzioni italiane ma anche europee, all'ONU, bisogna rafforzare urgentemente tutti i programmi contro il razzismo. Chiunque a cariche pubbliche, attraverso il suo comportamento e le sue parole, ha la responsabilità di dare messaggi positivi e ridare speranza ai nostri ragazzi e bambini. Serve un percorso culturale. E alla domanda: ha mai pensato di rassegnare le dimissioni? No, risponde Cecil Kyenge, sarebbe una vittoria di chi mi ha sempre attaccato, e questa è una battaglia che riguarda tutti, non solo la mia persona. Vabbè, la polemica è aperta. Tra l'altro oggi c'è anche il dibattito sulla abolizione del reato di immigrazione clandestina, reato che porta a tante inchieste di tutti coloro che sbarcano, per esempio a Lampedusa, e spesso anche il procuratore di Agrigento dice poi inchieste che finiscono nel nulla, devo aprire fascicoli, e quindi si discute di questo. Ma la polemica in sé sul ministro ha superato tutto. Kyenge, la lista nera della Padania, così titola pagina 5 il manifesto. In tutto questo forse passa sotto traccia, è un po' l'impazzimento del dibattito pubblico, quella che è l'apertura di Avvenire, che titola così: fuga dalla guerra, annegano in 200 in Sud Sudan, naufraga un barcone di profughi. Paolo Alfieri racconta la cronaca che c'è solo con tale risalto su Avvenire a pagina 4. Per Lampedusa stavolta non sono riusciti nemmeno a imbarcarsi, la loro storia disperata è finita in maniera tragica ancor prima, erano in centinaia, fuggivano dalla guerra, dalle bombe, dalla paura. C'è chi riesce ad arrivare in Libia, difficile in Tunisia e poi c'è la prova difficile della traversata verso l'Italia, ma stavolta il naufragio non è avvenuto nel Mediterraneo ma nelle acque del Nilo. Appena partiti nell'Alto Nilo a nord-est della capitale Giuba, fuggivano dal Sud Sudan in guerra. Da giorni ci sono scontri e sono annegati in 200 appena partiti. Ripeto, alle 8:15 ne parleremo anche col vostro contributo, con le telefonate degli ascoltatori. La politica italiana invece è tutta ancorata a... Beh, intanto Enrico Letta torna oggi dal Messico, dalla visita istituzionale. La legge elettorale è in corso la 37esima settimana decisiva di questa legislatura sulla riforma elettorale. E gli sviluppi sono che... Secondo Repubblica, Renzi ieri si è visto in gran segreto, che poi gran segreto evidentemente non è visto che sta scritto tutto su Repubblica, con Denis Verdini, vale a dire l'uomo, il braccio destro di Silvio Berlusconi. L'incontro segreto di Matteo con Verdini, dovete dirmi se reggete un patto. Francesco Be e Carmelo Lopapa raccontano di questo retroscena e questo incontro a pagina 9 di Repubblica, mentre Emilia Patta sul Sole 24 Ore racconta che Renzi vedrà Berlusconi forse venerdì, forse sabato, ma sempre col forse, forse sì, forse neanche si vedranno. Sta di fatto che ieri Renzi è attaccato sul caso De Girolamo, ha detto De Girolamo non è come Josefa Idem, ricordate l'allora ministro dello sport, che si è dimessa, ha dimostrato ben altro spessore, così ha detto Renzi, e sul caso De Girolamo ancora continuano le indiscrezioni e gli attacchi. Renzi ha attaccato anche Alfano, subito lo Ius Soli e le unioni civili, e ha detto ieri twittando: Renzi ha scritto alla stampa, è sempre Renzi, Renzi, Renzi. Renzi prende anche carta e penna e scrive alla stampa. Una lettera in prima pagina: caro direttore, sono affezionato lettore di Luca Ricolfi e un appassionato di fumetti Disney e ho letto che il vostro editorialista paragona la mia segreteria a Quiquoquà. La cosa è stata talmente divertente da far passare in secondo piano la sorpresa per una ricostruzione in cui mi ritrovo. Se fino ad oggi si sono perse occasioni su occasioni, caro direttore, è difficile dare la colpa a chi non c'era. Per restare alla metafora ricolfiana, a Quiquoquà, che sono disegnati come molto antipatici, ma qualche problema lo risolvono. Zio Paperino è più simpatico, ma non ne azzecca una, e soprattutto l'attuale classe dirigente assomiglia molto a Paperoga, dove tocca sbaglia. Così Matteo Renzi cavalca questa metafora ricolfiana del Quiquoquà e dice: l'attuale classe dirigente è Paperoga, se io sono Quiquoquà, dove tocca sbaglia e perfino volenterosa, intendiamoci, ma rompe e non paga, e accade da troppi anni. Insomma, poi Renzi spiega quello che hanno fatto, il Jobs Act, quello che propongono, la riforma elettorale che era finita a chi l'ha visto, scrive Renzi, adesso a scadenze certe alla Camera dei Deputati. Avete sentito, cari lettori, cari ascoltatori, scadenze certe della riforma elettorale. Staremo a vedere. Sta di fatto che su Renzi, visto che così concludiamo la renziade di oggi sui giornali, c'è un interessantissimo profilo che Claudio Gatti sul Sole 24 Ore fa di un suo collaboratore di cui si parla pochissimo, anche perché è un collaboratore, è considerato il più stretto collaboratore di Matteo Renzi, ma anche il più invisibile, colui che è molto timido e non parla mai coi media. Si tratta di Marco Carrai. Marco Carrai è un imprenditore, Claudio Gatti ne ricostruisce la vita, 38enne di Greve in Chianti, uno che ha un'amicizia davvero stretta con Matteo Renzi, tanto che scrive Claudio Gatti: siamo riusciti con grande fatica a strappare un'intervista a Marco Carrai, qualche parola. Per esempio, abbiamo scoperto che da giovane è stato 8 anni praticamente in un letto d'ospedale malato, e lì si è cementata l'amicizia con Renzi, un'amicizia che mi ha salvato la vita, dice Marco Carrai di Renzi. Da lì poi gli incarichi pubblici e poi tutti gli incarichi imprenditoriali. E quando Claudio Gatti chiede del suo lavoro imprenditoriale, risponde Carrai: io non ho mai preso soldi da nessuno, non prendo soldi pubblici, non lavoro con il comune di Firenze, nessuna delle mie aziende ha mai lavorato per il comune o per l'aeroporto di Firenze, mi attengo alle leggi italiane, a quello che dovrebbero fare tanti italiani, a quella che è la mentalità americana. Poi c'è la vicenda dell'Opus Dei. Secondo alcuni, Marco Carrai è legato all'Opus Dei, è sicuramente di famiglia molto cattolica, ma Carrai dice no, non faccio parte dell'opera. E che rapporti ha con l'Opus Dei? Che rapporti ho? Zero. Però lei ha finanziato, lei cita Artes, un'associazione dell'Opus Dei, questo nella sua pagina personale. È una bella cosa, conosco il direttore, conosco tante altre persone e anche qualche anno fa Marco Carrai ha sovvenzionato un libro di rettifica del Codice da Vinci. Ricordate il Codice da Vinci, il romanzo di Dan Brown? Gli abbiamo chiesto il motivo. In ospedale ho letto tanti libri, incluso quello di Brown, e ho trovato che diceva una marea di cazzate. C'erano scritte cose talmente strane che mi sembravano cavolate, sembravano il peggio del peggio che c'era al mondo. E quindi ho finanziato questo libro. Io alcune persone dell'Opus Dei le conoscevo, il mio professore, uno dei miei professori di economia era dell'Opus Dei, le assicuro che erano delle persone più buone che abbia mai incontrato in vita mia. Io comunque non sono mai stato dell'Opus Dei e probabilmente non lo sarò mai. Così Claudio Gatti fa un profilo, è molto interessante, perché di Marco Carrai, ripeto, si è scritto poco, e soprattutto di questo stretto consigliere di Renzi, delle parole sue non si è mai saputo praticamente nulla. È vero Mauro Meazza? E così andiamo al Sole 24 Ore. Dal Sole 24 Ore al Sole 24 Ore, certo. Eccoci qui. Capisco, tu ti sei fatto attrarre dal bel lavoro di Gatti, che ha pescato appunto Carrai. Se vuoi, guarda, proseguendo più oltre nel giornale, ti segnalo anche Giorgio Santilli che intervista il Presidente dell'Autorità dei Trasporti, Camanzi, il quale dice che insomma faranno delle proposte per limitare i rincari, potrebbe essere una buona notizia. Assolutamente, non speriamo. Non dice solo questo, dice molte altre cose appunto a Santilli. Però ricordati che devi studiare. La minimu, sì, devi studiare. Oggi adesso sul Sole c'è un ci sono 8 pagine. Un bel bigino per studiare. Esatto. Sì. Cioè, abbiamo proprio ridotto all'essenziale, però questa va saputa entro il 24 gennaio, perché in 2401 comuni va pagata, e quindi bisogna farsi i conti, armarsi di pazienza, non saranno grandi cifre probabilmente, ma sicuramente una cosa da pagare, perché ci sono pure le sanzioni, ma te lo chiedo poi domani, così vedo se hai studiato. No, chiedimelo al 24. Bisogna che la sai domani, così poi proseguiamo, perché tutti i giorni noi sai che mettiamo qualche indicazione sulla casa, scherzi a parte, insomma, avremo domani delle ulteriori indicazioni sulle novità 2014 per la casa sul Sole 24 Ore di domani, quindi insomma bisogna che non ti puoi per studiare tutto all'ultimo momento. No, è chiaro, esatto, è un gran classico, faccio tutte le vacanze e poi gli ultimi tre giorni. E poi l'ultimo giorno cerchi di farti dare i compiti da qualche amico, poi insomma lo so che poi funziona così, che fate così. È un gran classico. Senti, voglio dire invece ai miei amici, non quelli fiscalisti, ma questa volta anche giuslavoristi, consulenti del lavoro, abbiamo il dato sul TFR. Loro capiscono. Loro sanno e lo trovano appunto nelle pagine. Hai visto che c'è rientro dei capitali e anche un po' quello dei capitani in questo periodo. Sì. Solo parliamo del rientro dei capitali. E quello dei capitani dei capitani da Brasile. Fanno gli allenatori. Da Brasile. Vabbè. Meglio il rientro dei capitali. Caro Mauro, intanto ti ringrazio. Ci sentiamo domani. Qui rientriamo dopo la pausa per il traffico e gli aggiornamenti sul traffico, perché c'è un altro ministro che ora finisce sotto nella polemica dei giornali, una telefonata di Alfano, ministro dell'interno, con Ligresti, e questo dà la stura per molti quotidiani, addirittura il Fatto Quotidiano metterlo in prima pagina e dire eccolo lì il nuovo intreccio di un ministro dopo il caso Cancellieri con i Ligresti. Tra poco Alessandro Milan, il panettiere dell'informazione. Allora, una telefonata fa addirittura mettere il Fatto Quotidiano questo come apertura: Ligresti a un altro ministro, Alfano lo chiamò per una casa. La vicenda di una telefonata, di un'inchiesta depositata nell'inchiesta del PM Luigi Orsi, con la chiusura di un filone d'indagine sull'inchiesta Fonsai, c'è un colloquio, una telefonata di Alfano con Ligresti. Titoli dei giornali, non so, una carrellata veloce. Il Messaggero, una telefonata con Ligresti accende la polemica su Alfano. Repubblica, spunta una telefonata Alfano-Ligresti, il mio amico aspetta da lei quella casa. Il Giornale, Angelino sotto attacco, telefonata Ligresti ma solo per una cena. Effettivamente il Fatto Quotidiano, che mette a pagina 3 anche lo sbobinato della telefonata, sembra una telefonata di due persone che si accordano per una cena. Illustre, esordisce così l'ingegner Ligresti, volevo sapere quanti siete. Alfano tentenna, ma è lei, è con sua moglie o è solo? C'è mio figlio, mia figlia, mia moglie. Se vuole io vengo da solo, se no con mia moglie e un amico, risponde Alfano. Insomma, così, non avevo altra organizzazione. Ma no, più venite meglio è, perché la tavolata è lunga. Messa così sembra una telefonata. Ma a che ora dobbiamo arrivare? Alle 9, 8 e mezza? A che ora preferisce lei? Dalle 8 e mezza alle 9? Sì, ma se avete gli amici portateli, il tavolo è grande. E poi c'è questa cosa, ma anche i vostri amici devono venire, ma quelli vengono a Milano, se lei non gli dà la casa non possono venire qua, così dice Alfano a Ligresti, che di lavoro, insomma, l'immobiliarista, quindi no, di case ne ha. E vabbè, e quindi c'è però l'accusa evidentemente dei rapporti, anche rapporti tra un altro ministro e Ligresti. La polemica corre già sui giornali. E invece la polemica è stata un po' smorzata in Francia. Andiamo oltre Alpe anche oggi, non possiamo non citare le tante pagine sui giornali. La polemica di Hollande, ha fatto 2 ore di conferenza stampa, ha promesso il rilancio dell'economia, 30 miliardi di sgravi, ha promesso tante cose, ma diciamolo francamente, tutto il mondo guardava questa conferenza stampa di Hollande per capire come avrebbe trattato il caso dell'amante Julie Gayet. E beh, l'ha trattato alla francese, cioè pochissime parole, è una vicenda privata, non ne voglio parlare. Quando gli hanno chiesto di Valérie, come sta Valérie? Si sta riposando. Come si sta riposando in ospedale? Si sta riposando e non aggiungo altro. E basta, nessun giornalista si è permesso di aggiungere qualsiasi altra postilla o domanda o controdomanda sul caso. Sta di fatto che tutti i giornali la mettono così. Per esempio il Giornale, Hollande tace su Julie, affossa la First Lady, il suo status non esiste. Su Valérie dice riposa, chiarirò prima del viaggio negli Stati Uniti. Ma emergono sempre più particolari, guardate per esempio il Giorno, pagina 5, aveva 2 alcove clandestine, la tradiva da tre anni. Addirittura invece, secondo il Corriere della Sera, a pagina 2, perché i giornali molti italiani dedicano le prime pagine a questa vicenda, a pagina 2, secondo un blogger francese abbastanza dentro alle cose, Julie sarebbe al quarto mese di gravidanza. Dunque l'amante al quarto mese di gravidanza. Insomma, si aggiunge puntata su puntata al feuilleton in salsa francese. Ora i francesi pare vogliono anche in qualche modo cancellare lo status di Premier Dame, no? Per cercare, vabbè, insomma, cose francesi, comunque, che riguardano tutto il mondo. Ieri abbiamo detto che anche Obama parrebbe, insomma, un po' così, un po' in bilico, così dice il National Enquirer. Staremo a vedere. Per la cronaca io voglio segnalare ciò che in prima pagina del Messaggero viene raccontata come una storia, uno spaccato che a mio modo risulta incredibile per raccontare questo paese. È la vicenda che ha portato all'arresto del cosiddetto RAS della discarica, insomma il patrono della discarica di Malagrotta, Manlio Cerroni. Perché la vicenda raccontata da Sara Menafra ha dell'incredibile, perché basta il titolo a capire. La richiesta di arresto per Cerroni fu rubata dall'ufficio del GIP. Sentite questo spaccato d'Italia. C'è una talpa negli uffici del Tribunale di Roma, una manina ben inserita, molto potente, capace di arrivare nell'ufficio del GIP Massimo Battistini. Mentre il GIP nel corso dell'ultimo anno valutava gli atti che avrebbero portato all'arresto del RAS delle discariche Manlio Cerroni, Questa manina è stata capace di far sparire l'intera richiesta di misura cautelare firmata dal PM Alberto Galanti dalla sua cassaforte. Non solo. Quando i magistrati si sono accorti di quanto era accaduto negli uffici del Tribunale il 16 luglio 2013 e hanno avviato le indagini, si sono accorti di due particolari molto gravi. I nastri delle telecamere che filmano i corridoi di Piazzale Clodio notte e giorno erano spariti e contemporaneamente chi ha agito è riuscito a non lasciare nessun segno di effrazione. Insomma, se qualcuno all'interno del tribunale che gli ha dato una mano, c'è qualcuno all'interno del tribunale che ha dato una mano permettendo di ritardare l'arrivo degli arresti. Per questo un fascicolo d'indagine è stato aperto anche a Perugia. Cioè, alla fine l'arresto per Mario Cerrone è arrivato, ma era evidentemente già pronto da luglio ed è stato fatto sparire da una manina che è entrato nella cassaforte di un jeep all'interno di un tribunale di Roma. Ma vi rendete conto della... E questa notizia che giustamente il Messaggero mette in prima pagina e poi a pagina 6 lo sviluppo, Sara Menafra racconta questa vicenda che dire inquietante è poca. Io di cronaca sono rimasto colpito anche da questa notizia che Elvira Serra mette a pagina 22 del Corriere della Sera, è la vicenda che riguarda ed è un protagonista, Marcello Dell'Anna. Marcello Dell'Anna è un ergastolano, sta ascoltando l'ergastolo al regime, tra l'altro 41 bis come affiliato alla Sacra Corona Unita, nel carcere nuorese di Badue Carros. Nel frattempo ha studiato, si è laureato e adesso insegna diritto agli avvocati. Il boss laureato che insegna diritto agli avvocati. Ci è venuta idea, un'idea unica del suo genere e ci mancherebbe. Alla direttrice del carcere, Carla Ciavarella, racconta così il legale, l'avvocato che ha battezzato il progetto, mi ha parlato del detenuto, abbiamo cominciato a pensare a qualcosa che lo potesse gratificare e far sentire una risorsa, ed eccolo qui. Sui temi dei circuiti penitenziari, del trattamento rieducativo, la classificazione dei reati, nessuno poteva essere più esperto di lui e così insegna agli avvocati, fa dei corsi, delle consulenze. Non lo so, per carità, il carcere deve rieducare, il carcere deve dare un'altra possibilità, ma sono un po' perplesso. Il boss laureato che insegna diritto agli avvocati. Questo la trovate sul Corriere della Sera. Va bene, siamo al momento conclusivo, il momento dell'articolo più inutile scovato sui giornali. Oggi stravince La Stampa, che dedica con Francesco Semprini un'intera pagina a questo tema nel quale si dibatte tantissimo, tutta l'America dibatte di questo. New York dice addio alle carrozze a cavalli. Quei giri per turisti con le carrozze e cavalli, ma chi se ne frega? Dedicare una pagina a questo, poveri cavalli, povere carrozze, povere turisti, come faranno i turisti a non fare il giro di New York con le carrozze e coi cavalli? Ma chi lo sa? Andiamo a sentire il giornale radio, va.